questo cielo buio antico che ci fa. Resta un po' qui, abbracciata con le labbra tue che mi proteggono il respiro. Come fai? Che quando parli con me mi sento meno solo, e quando ridi così, come sai che quando voli con me mi perdo nel tuo cielo. Sogni con me si accendono.